con Gianluca Diana, autore del libro Mariam Hassan, Io sono Saharawi, che sarà presentato a Roma all'InfoPoint di Emergency giovedì 21 febbraio 2019. Gianluca, ben trovato. Ciao, grazie della possibilità. Ci racconti di questo lavoro? È stato un bel viaggio e continuo ancora ad esserlo. Da subito ti dico, non sono pienamente in fase solista, ma assieme a me c'è Andromachis, quindi userò un plurale maiestatis perché mi sento di parlare assolutamente anche per quanto riguarda la persona di Andrea Malis, questo è il suo patronimico dal punto di vista artistico, essendo lui l'illustratore, il disegnatore, come dico sempre, quello bravo dei due, e per l'appunto abbiamo condiviso questa storia assieme. È nata in un modo molto radiofonico la biografia di Mariam Hassan, perché tra le varie cose che si fanno c'è anche trasmettere in radio, e tra l'altro approfitto per rammentare che Radio Onda Rossa è stato il mio esordio radiofonico oramai diversi anni fa, e quindi, come dire, posso portare solo affetto a quel ricordo, a quella memoria. E insomma, da radiofonico mi sono imbattuto in una canzone, in particolar modo porta il titolo di Maligat Mil Fit Nadula, che sembrano delle parole difficilissime, in effetti lo sono, ma suonano più o meno come non ci sottometteremo. E grazie a questo incontro, quindi è come dire una melodia che ti strappa l'attenzione, un battito, un groove estremamente ritmico, una voce possente e carismatica, da quel momento in poi si è aperta un'avventura meravigliosa che né io né Andromachis avremmo mai immaginato che sarebbe divenuta tale, vale a dire la biografia sotto forma di romanzo illustrato, di graphic novel, o come si dice alla spagnola, di libro comic, di Mariam Hassan, che è stata la voce più importante, lo è ancora, nonostante sia scomparsa nel 2015, dell'intero popolo Saharawi. Senti, com'è strutturato il libro? Essendo due amanti decisamente effervescenti della musica a tutto tondo, quindi nei nostri ascolti si va dal blues, al punk, al rock, alle varie forme di elettronica, insomma tutto quello che si può immaginare come alterità musicale, ad un certo momento, subito dopo aver capito che sarebbe partita questa avventura, abbiamo pensato a quale forma dare al testo e dopo vari ragionamenti in realtà ci siamo resi conto, come capita spesso, sai, a volte quando si dimentica, che so, che il mazzo di chiavi che sta cercando è proprio lì sul tavolo e non riesce a vederlo perché si è distratto da altro. Insomma, ci siamo concentrati e ci siamo resi conto che la soluzione era già sotto i nostri occhi. Mariam è stata al contempo un'artista di fama internazionale, un'icona per le donne Saharawi e ovviamente un'icona per tutta la storia sociale e politica del popolo Saharawi. Quindi la struttura del nostro testo ha percorso esattamente quella che è stata la sua identità. Abbiamo iniziato dal primo punto, quindi dalla musicista, dall'artista di fama internazionale, e quindi abbiamo pensato che forse un tentativo, e poi in realtà così è stato, così è andata bene, fortunatamente, poteva essere quello di immaginare il testo esattamente come una di quelle vecchie registrazioni in vinile di qualche tempo fa. Noi, per assonanza e per gusto, abbiamo pensato da subito ambedue a Sandinista dei Clash, per intenderci, dove c'era dentro sì tutta la musica occidentale, ma c'era anche la world music, ed a prescindere poi da quelle che fossero le influenze, ogni brano aveva ragion d'essere per la posizione che aveva all'interno del disco, quindi il brano 1 in posizione 1, il brano 2 in posizione 2 e così via. Dal punto di vista pratico questo significa aver tirato giù un libro che consta di 6 capitoli, ognuno di questi è un decennio e per ognuno dei capitoli in questione abbiamo trovato un brano della discografia di Mariam che potesse essere coevo e quindi opportuno per il capitolo di cui stiamo parlando. Faccio un esempio molto rapido. Primo capitolo, 1958, e qui ti faccio un asterisco perché c'è una breve storia. 1958-1970, il capitolo della infanzia e della prima adolescenza di Mariam, e quindi a quel capitolo abbiamo dato il titolo di una canzone che raccontasse il mondo infantile e adolescenziale giù nei campi Saharawi. In particolar modo la canzone in questione, che porta il titolo di Arfa ed è contenuta dentro il Junek Dati, il suo ultimo disco da studio, oramai di qualche anno fa, è una nenia, una sorta di dolcetto scherzetto che viene cantato per l'appunto giù nel deserto del Sahara, ai bimbi in età scolare. Bene, ci sembrava il caso quindi dare ad ogni capitolo un titolo apposito. Ti parlavo di un breve inciso, una storiellina, la data di nascita, che come dire sembra un divertissement, in realtà racchiude per l'ennesima volta una delle tante storie che Mariam si porta dietro. Quando lei con le prime interviste che abbiamo avuto, mi raccontava del suo anno di nascita, del 1958. Marem aveva uno sguardo estremamente carismatico, un sorriso altrettanto includente, faceva sentire bene praticamente chiunque avesse di fronte, sia che si trattasse di un slavo, di un europeo, di un occidentale, di un orientale, eccetera. D'altronde donna di mondo e che di palchi ne ha visti veramente tanti. Beh, Marem, ogni volta che io le ricordavo la data di nascita, mi diceva sempre: era il 1958, così mi ha detto mia madre. Ma poteva anche essere un anno prima o un anno dopo, come puoi immaginare, nel deserto del Sahara, mentre eravamo migranti in cerca di acqua per i pascoli da foraggiare, in quanto il padre, per l'appunto, si dedicava all'allevamento del bestiame e all'agricoltura, di certo non c'era l'anagrafe, e quindi il tempo, quindi questo 1958, come dire, era abbastanza relativo perché era una data buttata là, ma poteva essere 6 mesi prima o 6 mesi dopo. Com'è la condizione Sahrawi oggi? Cristallizzata, ma sempre in effervescenza. Noi raccontiamo la parabola di vita di lei, che è esattamente quella del suo popolo, e quindi parliamo del conflitto degli anni 70, l'esigenza di avere indipendenza per il proprio Stato, l'invasione del Marocco, la fuga nei campi profughi in Algeria, che sono attorno alla zona di Tindouf. Tra l'altro, rammentiamo, un posto che geograficamente parlando va dai meno 15 ai più 55, più 56 nei momenti di maggior caldo, con annesse tempeste di sabbia. Era così ed è ancora così anche con i cambiamenti climatici, anzi le situazioni sono ancora peggiorate. Ma ricordiamo che in mezzo a dividere il Sahara occupato dai territori liberi c'è un muro lungo 2.720 km, che è secondo soltanto alla muraglia cinese, pieno di mine anti-uomo. In buona parte, tra l'altro, provenienti dalla penisola, raccontiamo anche questo nel testo. Bene, la situazione è rimasta esattamente la stessa. C'è quindi una parte della storia Sahrawi che è nei territori occupati dal Marocco, e ci sono una serie di infrazioni dei diritti umani che sono davvero all'ordine del giorno. Ci sono tutta una serie di giornalisti che si muovono in modo indipendente, cercano di far fuoriuscire notizie, ma con estrema difficoltà. Ci sono continue violazioni dei diritti umani da questo punto di vista. Mentre nei campi profughi, che ricordiamo sono in territorio algerino, proprio in questi ultimi anni c'è sicuramente, come dire, un dialogo sempre più acceso all'interno della popolazione Sahrawi, perché sì, ci sono le vecchie generazioni che hanno creduto moltissimo nel messaggio politico e sul fatto che si potesse trovare un'altra soluzione oltre il conflitto. Rammento che la guerra è andata in scena dal 75 al 91. Nel 91 l'ONU ha detto: sì, ok, si farà un referendum, così deciderete in che modo interpretare il vostro futuro. Il referendum non è mai stato fatto, e dal 91 i Sahrawi hanno smesso di sparare, si tratta soltanto di diplomazia e cultura. Sono ragionamenti, questi, come puoi ben capire, che vanno bene più per i vecchi, per le generazioni di prima. Molti giovani sono nati laggiù direttamente all'interno dei campi profughi e scalpitano perché sicuramente vorrebbero anche cercare altre soluzioni. È una situazione molto particolare che rischia in alcuni momenti di esplodere, però se ci sono un paio di punti fermi che non vengono spostati, ovvero l'alta alfabetizzazione del popolo sahrawi, quindi un livello di cultura di un certo tipo, e il fatto che riescono ancora a dialogare moltissimo al loro interno, questo permette ancora una scelta politica ben chiara, che è quella di non confliggere ovviamente con il Marocco. E all'interno di questa cosa che ti sto raccontando si muove ovviamente tutto quanto un associazionismo, un mondo del volontariato che, a seconda da dove arrivi, i paesi europei in particolar modo, oltre alla Spagna, parte di Francia, ma soprattutto l'Italia, vede un sacco di associazionismo di base che continuamente ha una serie di progetti che investono tutto l'anno nei campi profughi, perché la situazione è veramente terribile. Io ho la ventura di esserci nel 2015 e, nonostante, come dire, ci siano degli accenni di modernità, però le situazioni di vita sono particolarmente, ripeto, difficili e, insomma, non facili per sbarcare il lunario giorno dopo giorno. Mancano generi alimentari, c'è un continuo rifornimento di acqua da fuori, perché ovviamente lì non ce n'è, insomma, come si può immaginare. Gianluca, in chiusura ci lasci i riferimenti web per saperne di più? Certo, come Mariam Hassan, io sono Sahrawi, ho anche scritto la spagnola, che è Soy Sahrawi. Esiste una pagina di Facebook che è abbastanza attiva. La nostra casa editrice si chiama Darta Edizioni, anche quella relativa pagina Facebook e sito internet. Se posso, una battuta velocissima, solo per dire che si tratta della biografia di una musicista, ma è anche altro, e nonostante ci siano, come dire, dei passaggi tristi relativi al conflitto, alla morte, eccetera, eccetera, però è il libro esattamente come era Marin, lo abbiamo costruito assieme a lei, quindi con una incrollabile fiducia nel futuro e con un sorriso che spesso può cercare di risolvere situazioni giorno dopo giorno. Il giovedì 21 di febbraio, quando saremo presso l'InfoPoint di Emergency, racconteremo questo assieme a Fatima Mahfouz, che è una dei rappresentanti dei Sahrawi in Italia, e poi a un rappresentante del collettivo Desertsession, che è una formazione musicale mista di italiani e musicisti Sahrawi che saranno presenti lì per parlare del loro disco. Cercheremo di mescolare le storie che arrivano al deserto del Sahara. I riferimenti web sono quelli che ti ho dato in precedenza. Io ovviamente ti ringrazio e spero di vederti al nostro incontro. Bene, allora l'appuntamento lo hai ricordato tu. Un saluto e un ringraziamento a Gianluca Diana, autore del libro Mariem Hassan, Io sono Sahrawi. Gianluca, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie a ascoltatrici e ascoltatori tutti. Un abbraccio, a presto.